versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana in questo lunedì 4 di maggio. Siamo qui in diretta agli studi della Radio 24 di Milano, 16:30 primi 47 secondi, e vi ricordo, poiché anche oggi la trasmissione trae spunto da una lettera di un ascoltatore che vi presenterò tra poco, che ci spiega una sua traversia che illustra però i problemi con cui hanno a che fare milioni di italiani, l'indirizzo per proporvi o per esprimere critiche, osservazioni e così via. Io provo a rispondere quasi a tutti, e se c'è un quasi è perché mi scappa qualcosa, perché non me ne rendo conto, altrimenti provo sempre a rispondere. Versione di Oscar, @24.it. Mentre per chi volesse intervenire, ora vi dico su che cosa: il numero di telefono è 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. L'ascoltatore che vi presento tra poco ci racconta una storia di ordinaria follia, come la vogliamo chiamare, che capita con i pagamenti dovuti allo Stato. Nel suo caso sono problemi che derivano da adempimenti giudiziari, per così dire. In realtà questa lettera e questo ospite che vi presento adesso capita a fagiolo perché sapete che noi stiamo vivendo settimane in cui è partita una grande campagna del fisco e dello Stato, la campagna Fisco Amico, in cui si sottolinea come lo Stato abbia compreso che deve cambiare procedure nei confronti dei contribuenti italiani, di qui il 730 precompilato rispetto al quale molti di voi sono alle prese con le responsabilità dei CAF e dei commercialisti, che diventano appunto responsabili a fronte dello Stato delle eventuali sanzioni in caso di irregolarità, e con la necessità da parte vostra di integrare con le detrazioni, e vedremo alla fine quanti, per evitare rotture di scatole, non mettono poi gli estremi per la detrazione e così lo Stato risparmia. Ma al di là di questo, al di là della campagna, credo che sia opportuno segnalare a ciascuno di voi, poiché non tutti leggete il Sole 24 Ore, non siete tenuti a farlo ovviamente, però oggi vale la pena, per avere un quadro della condizione in cui ci troviamo, comprare il Sole 24 Ore, perché lo potete apprezzare solo nella parte stampata più che online per una volta, perché la carta serve ancora talvolta a qualche cosa, quando si tratta di pubblicare tabelle graficamente molto grandi come quelle che occupano oggi due pagine, pagina 2 e 3 del Sole. E prima di spiegarvi di che si tratta, quindi vi chiedo di telefonare per spiegare quanto vi costa dal vostro punto di vista adempiere agli obblighi dello Stato in termini di denaro in più rispetto alle tasse che pagate, e di tempo, qualunque sia la vostra condizione, siate solo contribuenti per le imposte dirette, abbiate una ditta familiare, artigiani, commercianti, se siete addetti a far pagare le tasse a un'impresa più grande. Però questo è il giorno giusto, perché il Sole 24 Ore oggi ha fatto, mobilitando una schiera di esperti fiscali, quindi non è una stima nasometrica, è una cosa molto molto accurata, per così dire, ha fatto un conto delle operazioni quantitative, sia pure approssimativo ed è approssimativo per difetto, che ogni anno gli italiani devono porre in essere, persone fisiche e persone giuridiche, per adempiere al nostro obbligo fiscale. Un conto quantitativo. E il conto quantitativo di questi quattro tipi di atti diversi che molti di noi devono porre in essere, cioè gli adempimenti da una parte, dall'altro le comunicazioni fiscali, poi le dichiarazioni e poi ovviamente i versamenti, i pagamenti. Ecco, mettendole tutte in fila per le diverse imposte che ci sono nel nostro paese, si aggiunge la non poco significativa cifra, approssimativa per difetto, di circa 173 milioni di operazioni che vanno compiute da parte degli italiani ogni anno per essere in regola con la vastissima geografia della giungla fiscale. Allora, una volta determinati questi tipi di quattro categorie di adempimenti, comunicazioni, dichiarazioni e versamenti, voi trovate a pagina 2-3, appunto le due intere pagine del Sole 24 Ore, che è ancora il vecchio formato, quello lenzuolo per capirci, le troverete classificate in 63 tipi diversi a seconda delle imposte di obblighi formali, procedurali, che i contribuenti devono mettere in atto mettendo insieme tutte le diverse imposte. Di 63 tipi troverete indicato quanti di loro riguardano le imprese e quanto le persone fisiche approssimativamente, dopodiché si fa anche il calcolo di qual è il tempo medio per espletare ciascuno di questi 63 tipi delle 173 milioni di operazioni che è necessario porre in essere per essere in regola col fisco nel nostro paese, e si fa, arriviamo al punto, un conto approssimativo, anch'esso probabilmente per difetto, di quanto queste 173 milioni di operazioni per 63 tipologie diverse costa ali contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche. Costa, badate bene, aggiuntivamente rispetto a quanto noi diamo allo Stato, e cioè al 48,5% del PIL nel 2014 e il totale delle entrate pubbliche nel nostro paese, no? Ecco, in realtà quello ingloba, oltre al quanto paghiamo di imposte e contributi, ingloba anche questa spesa, che è una spesa che noi sosteniamo per adempiere a quello che il fisco ci chiede, per accertare, dichiarare, pagare quello che dobbiamo pagare. Ora, la prima volta in cui viene fatto questo conto con criteri così approfonditi e sistematici, della cifra a cui ammonta il costo a carico del contribuente per compiere queste operazioni. E la cifra è, ai miei occhi almeno, non voglio avere la pretesa di interpretare il vostro punto di vista, è spaventosa, perché queste 173 milioni di operazioni costano ai contribuenti da sole 17 miliardi di euro, cioè più di un punto di PIL. Ecco, questa secondo me, fatta da Sole 24 Ore oggi, è la miglior replica a chi vi racconta, poi, sia egli un politico, sia il capo di una delle agenzie tributarie dello Stato, quando vi in televisione o in radio ascoltate la campagna, il fisco amico, il fisco amico, il fisco amico. Partiamo da questo punto, che è un dato di fatto: paghiamo più di un punto di PIL solo per adempiere a tutte le folli procedure che il fisco ci chiede per accertare, poi dichiarare e pagare le tasse che dobbiamo pagare secondo le leggi vigenti. Ma ci sono 17 miliardi di euro a nostro carico per essere in regola con questo. Allora, faccio questa premessa perché, come ovvio, un fisco amico vero avrebbe come obiettivo dichiarato nel giro di, non voglio dire un anno, ma 1, 2, 3 anni, l'indicazione esplicita di un abbattimento progressivo di questi oneri a carico dei contribuenti. E allora sarebbe un fisco amico. Fino a che non c'è questo impegno a diminuire un costo così spropositato a nostro carico, secondo me il fisco resta un po' quello dello Stato ladro, per così dire. A questo proposito, e ora vado a presentare l'ospite, abbiamo diversi esempi di che cosa poi in concreto significhi la mia espressione, che a molti non piace, quella di Stato ladro. Molti pensano che io sia prevenuto nei confronti dello Stato. Ancora oggi dal Sole 24 Ore, questo lo trovate online sul quotidiano antilocale del Sole 24 Ore, il caso di una ASL, la ASL numero 11 in Campania. La Campania, lo ricordo a tutti, è una regione sottoposta al rientro coatto per eccesso tasso di deficit e debito sanitario, ebbene lì troverete documentato come l'ASL numero 11 di Napoli in Campania è dal 2002 che non riesce ad avere bilanci nei quali i crediti e i debiti siano in ordine, e dal 2002 che la Corte dei Conti boccia e riboccia in quanto approssimativi e non credibili le cifre contabili della ASL numero 11. Peccato però che gli indagati, politici e amministratori, manager della ASL numero 11, siano stati tutti assolti, e ancora adesso, poche settimane fa, sul 2014, la Corte dei Conti ha bocciato ancora una volta i conti della ASL numero 11. Ecco, questo è lo Stato che chiede a noi, facendo prediche etiche, di accettare l'idea che 17 miliardi di costo annuale solo per pagare le tante tasse che dobbiamo pagare siano una cosa giusta, mentre i suoi bilanci ballano, come avviene non solo all'ASL numero 11, ma ho fatto questo esempio perché è un esempio certificato, per così dire. Allora, troppo lunga premessa, andiamo al nostro ospite di oggi. Ci ha scritto Francesco De Torre, io lo ringrazio, caro Francesco, di essere con noi a telefono per parlarci della tua vicenda. Intanto voi telefonate, diteci quanto pagate per essere in regola con gli adempimenti e se la considerate una cosa giusta. Allora, Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e grazie di avermi dato l'opportunità di parlare di questa storia. Eh no, grazie, perché ne ha scritto e quindi ho ritenuto che fosse. Allora, la cosa nasce da una querela che lei fa nel 2008. Sì, io nel 2008 querelo un signore il quale in prima istanza viene condannato a 7 mesi di reclusione e al pagamento di una un'ammenda di 56.000 euro per me e per l'azienda che rappresentava. Il signore oppone appello. Che devo dire rispetto alla media delle... Ma questo per indicare che era un problema serio. Era un problema serio, perché la sanzione è considerevole dal punto di vista della giurisprudenza. Certo. Okay. Quindi il signore oppone appello e io mi costituisco parte civile. Nelle more del giudizio gli avvocati del signore chiedono di ritirare la querela, offrendosi di pagare per intero la provvisionale e di fare una lettera di scuse, riconoscimento di quant'altro. Noi ovviamente accettiamo. Dopodiché la questione, per quanto mi riguarda, accettate, quindi fate formalmente la remissione di querela. Facciamo la remissione di querela nel luglio del 2009. Sì. Dopodiché la cosa va nel dimenticatoio, ovviamente, è un capitolo chiuso. Peccato, perché all'inizio di aprile di quest'anno ricevo da Equitalia una cartella di 948 euro e 88 centesimi. Non capisco e non riesco a ricollegare, anche perché è incomprensibile la cartella che ricevo, non si capisce per cosa siano dovuti, se non per il fatto che è emessa dalla Corte d'Appello di Roma, campione penale. Contatto il mio commercialista, il quale dopo un'indagine dice: guarda, non riesco a capire, anche perché tu sei sotto Equitalia, intendenza di finanza di Asti, e qui a Milano stanno di... Comunque mi hanno detto che anche parlando con l'Equitalia di Asti non ti saprebbero dire niente, devi prendere contatto direttamente con la Corte d'Appello di Roma. E quindi telefono a Roma. Perché lei non vive e non lavora a Roma? Nel modo più assoluto. Sì. Io vivo in provincia di Piemonte, in provincia di Asti, a 600 passachilometri da Roma. Perfetto, e quindi credi di poter fare la cosa per telefono? Anche perché, esattamente, e chiamo. Devo dire che trovo tutte persone molto, molto educate e molto comprensive, anche se un filo paternaliste magari, ma questo fa niente. Quindi il primo mi dice: guarda, caro signore, se sa, noi non sbagliamo mai, gli errori sono uno su 1.000, uno su 10.000, ma guarda, io non ricordo di aver mai avuto a che fare con la Corte d'Appello. Eh sì, perché noi dimentichiamo le cose brutte. Senta, io ho dimenticato le cose brutte, però sia cortese, controlli, lei come si chiama, prendo il fascicolo, dopodiché dico: allora mi dice qualcosa, dice: no, guardi, per te non si può, deve venire, sono a 600 chilometri, come faccio a venire? Mi identifica chiedendomi una serie di dati personali e poi mi dice: caro signore, la colpa è del suo avvocato che, oltre a essersi testuale ciucciato la parcella, ha sbagliato l'atto di remissione. Va bene, grazie. Chiamo l'avvocato, che peraltro è un mio amico, e in termini amichevoli, faccio dire, gli dico: amico, così così. Lui casca dal pero, anche lui dice: Francesco, io non mi ricordo niente di questa storia. mi ritelefono dopo 2 o 3 giorni e mi dice: no, guarda che è tutto a posto, perché nell'atto di remissione è indicato chiaramente che in forza dell'articolo, mi pare 170, ma è poco importante, del codice di procedura penale, le spese sono a carico del querelato. Va bene, dico, mandami una fotocopia. Telefono di nuovo a Roma, mi telefono, mi risponde un altro funzionario, dipendente, non lo so. Sempre della Corte signora, d'Appello. Sempre della Corte d'Appello, la quale gentilissima prende il fascicolo e dice: eh sì, dice, ha ragione. Cioè, però, come ha ragione? Ufficio. Ma non erano quelli che non sbagliavano mai? Sì, certo. Dice, ma aspetti che è più ridicolo. Dice: chiami domani perché non c'è il capo ufficio. Va bene. Chiamo il giorno dopo, mi risponde un'altra signora, il capo ufficio. Ah, c'è caro signor Pirotti. No, guardi, io non sono Pirotti, io mi chiamo Deborah. Anzi, no, mi scusi, ma oggi ce ne sono 2 di questi casi. Meno male che ce n'era uno, sono i 10.000 quanti posti. Sì, sì, dice, c'è un errore. Cioè, per cui, guardi, io cancello immediatamente i 900 euro. E io mi prendo e dico: sì, signora, ma sono la cartella di 948. Ah, dice, no, sì, io posso cancellare i 900, ma i 43 euro sono spese di giudizio, per quelle deve fare opposizione. Dico: ma che vuol dire fare opposizione? Cosa devo fare? Cioè, deve presentare un altro documento e comincia a pagare i diritti, che sono 40 euro. Ma come 40 euro? Scusate. E poi i 5,88 euro che mancano? Ah, ma quelli non sono nostri, quelli sono di Equitalia. Equitalia le ha notificato l'altro. Sì, vorrà pagare la notifica dell'altro. Così, ma come voglio? No, non voglio pagare la notifica di un altro che non doveva essere fatto. Comunque, Transat, chiamo la Equitalia per sentire come mi devo comportare, se viene messa una nuova cartella. Però non dico: no, no, se la cartella è la stessa, lei pagherà solo i 48,88, però attenzione, perché bisogna che la Corte d'Appello ci comunichi questa storia entro 60 giorni. Scusi, perché se non ve la comunico entro 60 giorni cosa succede? Ah, dice, noi procediamo, quindi lei invece di 948,88 non deve pagare 1043, e se non paga i 1043 entro, non ricordo se altri 60 giorni o 90 giorni, noi procediamo con il recupero coatto. Dico: ma come? E allora cosa devo fare io? Guardi, ha 2 possibilità. Una, mi richiama fra una decina di giorni, e se la Corte d'Appello ci ha comunicato le cose, nessun problema. E aggiunge: ma dubito che questo succeda. Se no, bisogna che lei vada a Roma a sollecitare la Corte d'Appello. O, ancora meglio e più sicuro, paga l'intera cartella, poi fa opposizione e massimo entro 3-4 anni recupera i suoi soldi. Questa è testualmente quello che le ha detto il funzionario di Equitalia. Assolutamente sì. Allora, vale, io la devo... aspetti un secondo, perché poi le devo chiedere un po' di commenti. Io spero che sia chiaro a chi è in ascolto. Cioè, pezzi dello Stato, dopo aver negato l'infondatezza di un atto, un pezzo lo ammette, l'altro dichiara che non possono parlarsi tra loro, che spetta ovviamente a chi è vittima di un'ingiustizia farlo, e la conclusione finale è: ma va, paga comunque, poi tra 3-4 anni si vede. Ecco, questa è una vicenda che fotografa lo Stato che ci chiede di fare adempimenti per 17 miliardi a nostro carico. Siamo in ritardo con l'informazione sulle strade e poi torniamo con Francesco Dettore e le vostre telefonate tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, partendo dai 17 miliardi stimati oggi. Trovate in dettaglio il metodo con cui questi 17 miliardi sono stati stimati da un bel po' di esperti di fisco per le 173 milioni di operazioni che dobbiamo compiere ogni anno per adempiere al fisco, per stimare, dichiarare e versare quanto dobbiamo, però paghiamo 17 miliardi a nostro carico per farlo. Queste 173 milioni di operazioni dobbiamo essere in perfetta regola, perché sennò ci sentiamo anche le prediche da parte dello Stato, ovviamente, perché noi vadiamo, eccetera eccetera. Ho fatto un esempio che ha fatto alcune repliche, ha creato da parte di voi, dicendo: beh, che stai scoprendo? Che lo Stato non è perfetto, nessuno è perfetto, tu critichi solo lo Stato. No, se andate ad approfondire la vicenda della ASL 11 Campania, troverete che la ragione per questo, poi c'è stata un'indagine, anche se sono finiti tutti assolti, per il quale non tornano i conti dei crediti, i crediti sono finti, non ci sono. Ci sono addirittura dei debiti doppi, con pagamenti che sono stati fatti a chi non aveva titolo per incassare. cuore. E la vicenda quindi riguarda il fatto che nello Stato si annidano amici degli amici che ciucciano i soldi. Non so se è chiaro. Se a voi questa sembra un'imperfezione per errore, approfondite la vicenda ASL 11. Capisco che molti di voi non sopportino le critiche allo Stato. Io non sopporto i ladri di Stato invece, sapete? Perché poi ci fanno le prediche a noi. E c'è qui un ascoltatore che vi ha appena raccontato come la Corte d'Appello di Roma, sostenendo di non sbagliare mai, per una remissione di quella che ha fatto, dice che era sbagliata e gli arriva una cartella di quasi 1.000 euro, e alla fine della fiera, tra Equitalia e Corte d'Appello non si parlano, e alla fine Equitalia dice: ma tu paga, poi tra 3-4 anni si vede, capite? Ecco, questa è una fotografia della simmetria. Comunque, adesso, prima di... volevo sapere Francesco Dettore che cosa fa a questo punto, però c'è qualche telefonata, sentiamo intanto Alessio da Firenze. Alessio, prego. Ciao, buonasera Oscar. Buonasera. Buonasera, allora io ho chiamato perché rimango sempre un po' diviso da quando sento queste cose tipo l'ASL, no? Perché poi lo Stato ti permette di aprire un panificio, nel mio caso, perché io ho aperto un panificio nel 2010, lavoro 12 ore al giorno, ho 5 persone a lavorare, perciò ho 5 famiglie da mantenere. E io nell'ultimo anno, tra virgolette, perciò da praticamente la prima volta che mi è arrivata la vera tartassata di tasse, perciò da luglio del 2014 a luglio del 2015, allo Stato gli ho dato il 72% di quello che ho guadagnato. Però una percentuale di quelli che farebbe gridare molti di quelli che pensano che con i piccoli esercizi si evade, si guadagna poco, troppo, anzi, no? Troppo, troppo, figuriamoci. Voglio dirvi una cosa a proposito di quello che è successo a Milano, ma ne abbiamo già parlato ai Conte da Belva sabato. Quando l'inno alla polizia che non ha impedito le devastazioni in una parte centrale di Milano, ho ascoltato l'audio di Roberto Saviano su Repubblica, che ancora lì potete ascoltarlo, dire che a un certo punto inneggia che la polizia è giusto che faccia così, perché così è evidente a tutti quanto le devastazioni non c'entrino con la giusta protesta. Io non sono d'accordo. A un certo punto dice: certo, c'è stato anche il danno terribile ai privati, automobili incendiate, negozi incendiati, bar sfasciati, di questi proprietari, testuali parole di Roberto Saviano, che lui ha definito di questi proprietari spesso innocenti. Cosa vuol dire spesso innocenti? Se non un dubbio neanche troppo subliminale che molti di loro se lo meritino, perché andiamo a vedere, magari sono evasori, magari hanno un Audi perché corrompono e così via. Ecco, questa sta diventando la vulgata di quello che è successo a Milano. È giusto che le devastazioni private avvengano, no? Lo Stato è così, dimostra a tutti che i cattivi che devastano non c'entrano con chi protesta e basta. Io non sono per niente d'accordo, soprattutto con i privati spesso innocenti e tal'altra col sospetto di non esserlo. Se lo Stato fa devastare, è colpevole, e lo Stato che viene meno uno dei doveri fondamentali, visto che le tasse le paghiamo per non avere le robe incendiate. Io la penso così, scusate. Silvia da Bologna, prego Silvia. Sì, buongiorno, spero che mi sentiate perché sono un po' senza sentiamo, voce. Sentiamo. Allora, volevo raccontarvi questa vicenda. Premesso che io sono un professionista che subisce la cosiddetta ritenuta d'acconto, nell'anno 2007 un mio cliente ha denunciato di avermi trattenuto e versato la ritenuta d'acconto, l'Agenzia delle Entrate si accorge che non è vero, entriamo in contenzioso, comunque io pago una cartella, una cartella, loro mi danno ragione e mi arriva da Equitalia la comunicazione che ho diritto a 5.000 euro di rimborso. L'anno dopo la stessa azienda si comporta nello stesso modo e invece vado in contenzioso, lo perdo e io ho un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per 3.000 euro. Allora io dico, scrivo una bella letterina e dico: signori, mi dovete 5.000, ve ne devo 3.000, vi chiedo di compensare debiti con crediti. Io abitavo a Bologna, questo è successo a Torino, e mando una raccomandata con avviso di ricevimento di questa cosa. La mia raccomandata va persa, io ho il protocollo che è arrivato con tutti i documenti, va persa e io vado a Torino per ricordare questo credito. Loro mi dicono: beh, ormai pazienza, è perso. Di questi 5.000 euro, perché nel frattempo il contatore dei 3.000 euro era aumentato velocemente, noi possiamo compensare quello che possiamo, ma ne deve ancora 2.000. Io vado in contenzioso, dico: non sono d'accordo su questo, avevo 5.000 euro, datemi la differenza, almeno pari passa. Conclusione? La conclusione è che mi arriva un'altra cartella esattoriale di 4.000 euro, a cui io faccio ricorso tramite il giudice di pace, perché io non contestavo la congruità della cartella. Con esito finale? Il risultato finale è che ho perso, devo pagare 4.000 euro in più, quindi mi costa 9.000 euro di 3.000. E non solo, se voglio forse vedere recuperati i miei soldi, devo andare in commissione tributaria, certo. Ma io non mi posso permettere. Esattamente, anche il caso di Silvia si aggiunge. Allora, a chi dice 17 miliardi sono una castronata per 173 milioni di operazioni, ripeto, guardate Il Sole di oggi, è una stima molto approfondita tecnicamente, quindi non sto sparando stupidaggini, perché sono 19,9 milioni di giornate lavoro per adempiere al fisco, eh? Non diffidate di chi vi mette su in guardia. Comunque continuate su Radio 24, grazie a Ettore, ci sentiamo domani.